Cantine di Franciacorta. Bentrovati, siamo a Camignone di Passirano, ospiti di Giulio e Lucia Barzanò, proprietari della cantina Al Mosnel. 250.000 bottiglie all'anno, quasi tutte bollicine, per un'azienda storica della zona. Tanta esperienza con l'obiettivo di produrre vini eleganti capaci di emozionare. Sentiamo Giulio Barzanò. Nel 67 c'è il primo disciplinare di produzione di Franciacorta che ci indicò come comportarci con la vitivinicoltura in zona. Nel 68 mamma decise di impiantare il primo impianto a denominazione. Da allora in poi gli impianti sono cresciuti e siamo arrivati alla situazione attuale attorno ai 40 ettari di vigneti con una notevole predominanza di Chardonnay. Ma abbiamo anche una buona percentuale, praticamente il 20% di Pino Bianco, che è un vitigno che non è così diffuso in Franciacorta. Alla prossima tappa! Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.